2024 di Enrico Pagliarini. Questa è la puntata del 10 dicembre, sono le 15:32 minuti. Benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma in Italia dedicato alla tecnologia. Ogni settimana ci interroghiamo e cerchiamo di rispondere ad una domanda: come la tecnologia ci sta cambiando la vita? Beh, sicuramente il mondo degli smartphone ci ha cambiato la vita di molto, e di questo parleremo nella seconda parte, con un accenno anche nella prima parte. Il nostro numero verde è 800 24 0024 per parlare con noi di smartphone. Tutte le domande che volete farci sul mondo degli smartphone, di carattere non solo generale, insomma, però di ampio respiro, non chiedeteci se la tal marca, il tal modello ha un particolare processore, insomma, su quello potremo rispondere perché i nostri esperti sono capaci di rispondere anche su questo, però non rispondiamo. A proposito di esperti, saluto Massimo Morandi, bentornato Massimo. Ciao Enrico, un saluto a tutti. E c'è anche Luca Figini al tuo fianco, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Dunque, Massimo Morandi, lo sapete, da 12 anni ormai parla a questi microfoni ed è il nostro esperto di telefonia mobile. Io non posso più dire tu sei il direttore di Cellulare Magazine, perché ormai questa è una delle tante cose che voi realizzate. Sì, tutto sulla mobilità, diciamo, che in questo momento sta dominando la scena della tecnologia. Anche i dati che vedremo oggi ce lo confermano. Esatto, parleremo anche di numeri di dati. Però volevo partire da un altro tema, che è quello della banda larga, della qualità della banda larga. Molte domande che ci fate su internet, su Facebook, potete seguirci durante la trasmissione anche su Facebook, potete utilizzare quella pagina per le vostre domande e le vostre considerazioni. Dicevo, molte di queste domande riguardano i collegamenti ad internet, che in alcune parti del paese sono effettivamente un problema. Sapete che a livello più generale in Europa esiste una cosa che si chiama agenda digitale, cioè una serie di cose che dobbiamo realizzare in Europa per digitalizzare un po' tutto, perché facendo ciò ci sono innumerevoli vantaggi. Beh, allora c'è una vicepresidente, Neelie Kroes, che è responsabile per l'agenda digitale europea, che tra le tante cose che ha fatto, forse questa non è nemmeno una delle più importanti, comunque ha approvato un progetto per realizzare in tutta Europa uno studio per capire qual è lo stato dell'arte dei collegamenti a banda larga. Sono coinvolti 27 paesi dell'Unione Europea, ai quali si è aggiunta anche l'Islanda, la Norvegia e la Croazia, che sapete non fanno parte dell'Unione Europea. Ci spiega in che cosa consiste questo progetto Giancarlo Capezzuoli di SamKnows, che è la società che realizzerà per conto dell'Unione Europea questo progetto. Questo progetto è stato appunto finanziato dalla Comunità Europea per ottenere un'immagine dettagliata delle prestazioni dei servizi banda larga nei paesi aderenti, per sapere quali sono le effettive prestazioni dei servizi offerti nei vari paesi e suddivisi rispetto ai vari internet service provider. Che tipo di misure vengono effettuate? Quindi che tipo di dati voi riuscite a ottenere da queste misure? Noi collezioniamo essenzialmente velocità di upload e download, poi collezioniamo i tassi di perdita dei pacchetti e i ritardi di rete. Voi state cercando per questo progetto volontari anche per l'Italia. Quanti ne state cercando e per far cosa? In Italia stiamo cercando 7.000 volontari che possono aderire al progetto, e tra questi 7.000 cercheremo inizialmente per la prima fase un migliaio di persone a cui spedire la nostra white box. Questa white box si occuperà appunto di monitorare e testare la qualità della rete dell'utente, in modo tale che l'utente possa accedere al nostro servizio di reporting e effettivamente controllare quali sono le prestazioni del servizio per cui sta pagando. Questa white box in che cosa consiste? Questa white box, in termini semplici, non è nient'altro che un router che viene attaccato al modem ADSL dell'utente, e quando non c'è traffico presente nella rete esegue i nostri test per appunto collezionare i dati che poi verranno utilizzati per comporre il report. Quindi se volete partecipare a questo progetto potete iscrivervi tramite un link che metteremo a disposizione anche sul nostro sito internet, su www.radio24.it. Esistono già una serie di misurazioni che sono state effettuate nel nostro paese, quindi abbiamo già dei dati che ci dicono più o meno a quanto vanno le ADSL. Ci sono anche dei servizi su internet che potete utilizzare di grandi operatori della rete, ad esempio Akamai, che è un grande Content Delivery Network, ha a disposizione questo tipo di dati, e quindi ognuno li può vedere anche su internet. Dicevo, ci sono una serie di dati. Allora, per capire qual è la situazione italiana, anche quali sono i motivi per cui vengono fatte queste misurazioni e a che cosa servono, saluto Cristoforo Morandini, che è responsabile dell'osservatorio banda larga di Between. Bentornato a 2024. Buongiorno a tutti. Non è un problema nuovo, perché in passato anche in Italia sono state già fatte misure di questo genere, giusto Morandini? Sì, il problema in realtà nasce da lontano, perché negli ultimi 10 anni, da quando si parla di banda larga, abbiamo di fatto riutilizzato le reti esistenti migliorando la tecnologia. Questo ha fatto sì che in meno di 10 anni il prezzo è più che dimezzato e le prestazioni sono aumentate di 30 volte. Però questo contemporaneamente ha fatto nascere un problema di trasparenza nella qualità dei servizi che effettivamente erogati. E quindi noi 3 anni fa abbiamo cominciato, ad esempio in Italia, ma questo è accaduto anche in altri paesi, a cercare di misurare la qualità effettiva dei collegamenti a banda larga. Morandini, perché si fanno queste misure? Qual è il motivo vero? Sì, il motivo vero appunto è che di fatto le prestazioni sono aumentate nominalmente di 30 volte, però le prestazioni effettive non sono aumentate in questa proporzione. Quindi il tema è la trasparenza: qual è il servizio che effettivamente i clienti hanno a disposizione? Quindi rispetto a quello che è oggi un servizio a 8 mega, che è quello di base, qual è la velocità effettiva che si ha a disposizione? Quindi vari paesi hanno adottato dei piani di misurazione, oppure hanno chiesto agli operatori di essere più trasparenti dando dei livelli di servizi minimi garantiti. In Italia chi ha effettuato queste misure, oltre naturalmente all'osservatorio di Between? Sì, noi abbiamo cominciato 3 anni fa, ma poi si è attivata anche l'authority delle comunicazioni, che ha adottato un percorso un po' originale rispetto ad altri paesi. Mentre in altri paesi si è puntato molto sul confronto competitivo, quindi se vuoi una pubblicità comparativa che consentisse di capire chi è il migliore e il peggiore, in Italia è stato distribuito un software che, installato sul proprio computer, consente di autocertificare la velocità e, qualora non conforme alle prestazioni dichiarate dall'operatore, si può recedere dal contratto. Mentre noi abbiamo adottato come osservatorio banda larga un approccio più di tipo anglosassone, nel senso che abbiamo misurato la qualità effettiva e cercato di capire quali erano i servizi effettivamente erogati dai vari operatori. Questa misurazione è ancora attiva, viene ancora fatta? Sì, è ancora attiva. Noi abbiamo circa, siamo arrivati fino a 40.000 utenti internet che partecipavano al progetto, adesso sono circa 20.000 e continuiamo a monitorare le prestazioni dei servizi. Ecco, allora, a proposito di prestazioni, a proposito di qualità della DSL, una delle cose che più spesso mi sento dire o vedo scritta dai messaggi degli ascoltatori è che i collegamenti internet in Italia non sono come quelli di altri paesi, la DSL fa schifo, eccetera, eccetera, cose di questo tipo. Dalle misure che voi avete effettuato, qual è la situazione a livello generale? Perché poi si parla per esperienza, ma magari uno abita in una zona sfortunata ed effettivamente in quella zona i problemi ci sono. Detto che comunque i problemi ci sono e sono insomma gravi e lo diciamo quasi tutte le settimane. Sì, allora intanto la velocità dipende essenzialmente, per quanto riguarda la DSL, dalla distanza dalla centrale di comunicazione e da quello che c'è in rete, addirittura da quello che c'è all'interno della casa, gli apparati che sono in casa e così via. Quindi in realtà è normale che, a seconda di dove ti trovi rispetto alla centrale, di che cosa hai in casa, hai delle prestazioni che magari sono diverse rispetto al tuo vicino o alla persona che sta a 500 metri da casa tua, e questo sembra incredibile. Sì, è proprio un problema anche di qualità del doppino telefonico di rame. Sì, diciamo, è un limite. Come ti dicevo prima, la DSL di fatto riutilizza il rame che è dentro tutte le case, e con delle evoluzioni tecnologiche abbiamo alzato le prestazioni. Allora, ad onore del vero, rispetto ad altri paesi, Se noi ci limitiamo al confronto su quello che si può fare con il doppio rame, siamo probabilmente anche messi meglio di altri paesi. La differenza è che in altri paesi sono state sviluppate delle reti basate su altre tecnologie, la rete televisione via cavo piuttosto che nuove reti in fibra ottica, quindi nella media noi siamo al 12°, 15° posto in Europa e siamo molto lontani rispetto ai primi della classe che sono i coreani, i giapponesi e Hong Kong. Ma Corea, Giappone e Hong Kong hanno una rete che è prevalentemente in fibra ottica, mentre noi abbiamo ancora la rete in rame. Ecco, la velocità media e anche confrontata con gli altri paesi europei, qual è della DSL in Italia? Noi siamo a circa 4 megabit al secondo, che sull'ADSL è sicuramente leggermente meglio di paesi che oggi sono sulla bocca di tutti, quindi Francia, Regno Unito. Solo che in quei paesi ci sono altre tecnologie che fanno sì che la media delle prestazioni garantite ai clienti in quei paesi è tendenzialmente superiore, ma perché usano altre tecnologie che noi in Italia non possiamo ancora utilizzare. Anche se io, attenzione, io sono uno degli italiani che ha un collegamento in fibra ottica a 100 mega, però sfortunatamente siamo ancora poche migliaia e io abito però in centro a Roma. Esatto, cose che possono succedere solo in centro a Roma, Milano o in poche altre città. O in questo momento poche altre città. Esatto, pochissime altre città, oppure se uno è un'azienda, insomma, ci sono collegamenti magari dedicati, ma insomma parliamo di grosse dimensioni. Allora a questo punto potrei chiedere qual è il problema della rete italiana? Cioè il grande problema, al di là del progetto per costruire una rete di prossima generazione, attualmente il grande problema è quello di ridurre il cosiddetto digital divide anche con tecnologie che non sono via cavo, un po' di telefonia mobile, un po' di Hyperlan, WiMAX, eccetera, eccetera, un po' di satellite. Cioè il vero problema oggi è ridurre il digital divide? Sì, in realtà anche qui la risposta va un po' qualificata. Quindi l'obiettivo dell'Unione Europea, visto che oggi l'Unione Europea chiama e noi stiamo ovviamente sull'attenti, c'è un obiettivo comunitario che è quello di garantire a tutti i cittadini europei un collegamento a banda larga a qualsiasi velocità entro il 2013. E questo lo facciamo con le tecnologie che hai detto tu, useremo tecnologia radio, quindi è un obiettivo raggiungibile per dare un qualche livello di servizio. Ma tu prima mi parlavi di livelli progressivamente crescenti di servizio. Per fare questo dobbiamo entrare su una nuova generazione di tecnologie, di rete fissa e di rete mobile, sono nuovi investimenti che richiedono uno sforzo che oggi non è all'ordine del giorno del nostro governo, per intenderci, e anche gli operatori stanno facendo delle scelte molto selettive. Potremmo dire che la misurazione che è stata lanciata dall'Unione Europea serve per capire qual è lo stato dell'arte in un modo, diciamo, omogeneo in tutta Europa? Sì, però sinceramente è un po' occuparsi di un problema vecchio. Oggi il vero tema è di capire come incentivare l'ulteriore sviluppo tecnologico e la creazione di nuove reti. Le misurazioni omogenee e uniformi sono un tema interessante, però in larga misura la situazione la conosciamo già. Bene, grazie a Cristoforo Morandini, buon lavoro, a presto. Auguri a tutti e buon Natale, a presto. 2024. Vi ricordo che anche questa puntata sarà disponibile poco dopo il termine attraverso il servizio podcast della nostra radio, molto utile, molto interessante per scaricare settimana dopo settimana il file MP3 di 2024. È tutto gratis, ma vi dà un vantaggio fantastico perché vi permette di avere il file disponibile sul vostro smartphone, sul vostro computer, sul vostro lettore di file MP3 e di ascoltare 2024, magari riascoltare 2024. Comunque ascoltarla in un secondo momento. Per concludere quello che abbiamo detto poco fa, abbiamo parlato della qualità dei collegamenti in banda larga nel nostro paese, ma abbiamo parlato anche di questo progetto europeo al quale potete aderire se volete diventare uno dei, in questo momento, 1000, se ne cercano 7000 per poi selezionarne 1000 in base alla regione di provenienza, volontari per partecipare a questa rilevazione tramite questa scatoletta che viene spedita a casa, che vi permette anche di vedere qual è la qualità del vostro collegamento. Oltre a questo, sapete che un grosso e forte dibattito è quello della costruzione di una rete di prossima generazione in fibra ottica. qui andiamo per le lunghe, soprattutto nel nostro paese, ma anche perché questa è un'infrastruttura che costa molti soldi, ma che prevede lavori molto lunghi. Nel frattempo dobbiamo fare con quello che abbiamo a disposizione, quindi dobbiamo mettere a fattor comune un po' tutte le tecnologie, prima di tutto la DSL e poi, lo abbiamo già detto, un po' di telefonia mobile, un po' di Hyperlan, di WiMAX, un pochettino anche di satellite. Ma sulla DSL ci sono nuove tecnologie, un ascoltatore ce lo ricordava qualche settimana fa. Alcatel-Lucent, ma anche gli altri, stanno sperimentando alcune tecnologie. Alcatel-Lucent è la prima che l'ha resa commercialmente disponibile, è una tecnologia che si chiama vectoring, che permette di far andare più veloce la DSL. Se ci si trova ad una distanza di quasi un chilometro dalla centrale si possono raggiungere velocità fino a 50 megabits al secondo, se ci si trova un po' più vicino a meno di 400 metri si può addirittura andare a 90 megabits al secondo. Probabilmente i primi operatori che in Europa metteranno a disposizione questi collegamenti arriveranno nel 2012 e speriamo che qualche cosa si veda anche in Italia. Adesso abbiamo alcune notizie della settimana. Digital News. Anche se da un po' non ne parliamo, 2024 prosegue come nulla fosse la battaglia legale globale nel mondo degli smartphone e dei tablet. La notizia di questa settimana è che in Germania Motorola ha vinto una tappa di una causa che la contrappone alla Apple per violazione di due suoi brevetti europei. La Apple ha annunciato ricorso, ma il tutto potrebbe risolversi con un accordo. Digital News. HP ha annunciato di mettere a disposizione degli sviluppatori il codice sorgente di WebOS, il sistema operativo acquisito lo scorso anno assieme alla Palm. Finora WebOS è stato utilizzato nel tablet Touchpad, che potremmo dire è stato un fallimento. Il tablet è stato ritirato dal mercato e anche il software doveva andare in pensione. Poi la notizia di questa settimana, appunto, che verrà invece messo a disposizione della comunità open source. Per gli appassionati vi avviso che domani sul negozio di HP su eBay verranno messi in vendita alcuni touchpad ricondizionati. Digital News. Prezzo naturalmente molto interessante, ma temo che sia solo per gli Stati Uniti e poi che in pochi minuti vadano esauriti. Il 15 dicembre, prossima settimana, arriva in borsa Zynga, specializzata nei videogiochi online per social network come Farmville, molto famoso su Facebook. La società conta di raccogliere, pensate, quasi 900 milioni di dollari, ma pensate anche che la valutazione si è dimezzata dallo scorso agosto, quando la quotazione sembrava imminente. Quello di Zynga è destinato a diventare il maggiore sbarco in borsa tra le aziende online prima del debutto di Facebook, atteso per il 2012, e dopo quello di Google nel 2004. Digital News. A proposito di Facebook, ha acquistato una startup di nome GoWalla, forse alcuni hanno utilizzato i servizi di GoWalla, è una società specializzata in servizi di localizzazione online, suggerimenti di viaggio, informazioni turistiche, eccetera, eccetera. Alcune cose che si fanno con GoWalla assomigliano a quello che si fa con Foursquare. Finora Facebook ha acquisito una serie di società, ne ha chiuse 5 di quelle acquisite negli ultimi mesi. Da martedì è disponibile un nuovo servizio che sulla Xbox 360, la console di Microsoft, tramite Xbox Live permette di vedere centinaia di programmi televisivi a richiesta, come si dice, on demand. Cambiata anche l'interfaccia, che prende spunto da quella per Windows Phone denominata Metro, e l'altra novità è che con il Kinect è possibile interagire con i movimenti anche con i comandi vocali. In Italia al momento sono disponibili i programmi del servizio di video on demand di Mediaset, il Premium Play. Bene, come vi dicevo, oggi ci occupiamo di smartphone in modo particolare, ma anche naturalmente di sistemi operativi. Tutte le vostre domande al nostro numero verde 800 24 00 24. Massimo Morandi, direttore di Cellulare Magazine, di Smartphone Magazine. Dunque, allora Massimo, partiamo un po' dalla smartphone mania che ci ha preso negli ultimi mesi, perché i dati ci dicono, quelli di vendite, che si vendono prevalentemente smartphone. Toglimi una curiosità prima di parlare di numeri. In assoluto però sono ancora più i telefonini tradizionali, quindi quelli semplici, che vengono venduti, oramai gli smartphone hanno conquistato la maggior parte del mercato? Allora, se vediamo il breve periodo, gli smartphone hanno conquistato sicuramente la maggior parte del mercato. Se vediamo il lungo, medio periodo, quindi un anno, gli smartphone rappresentano ancora il 45% del mercato, quindi qualcosa di meno della metà. Quindi, però, se parliamo degli ultimi settimane, gli ultimi mesi? Sì, sono soprattutto gli smartphone a vendere. I cosiddetti telefonini tradizionali continuano a vendersi con delle differenze, quindi ognuno ha cercato una nicchia, parleremo poi nella prossima ora dei dual SIM, ad esempio, che stanno vendendo molto molto bene, non sono considerati smartphone, perlomeno la maggior parte di loro non sono smartphone, però hanno dei dati molto interessanti. Poi bisogna anche intenderci sul significato di smartphone, perché nel tempo è cambiato molto, negli ultimi 12 mesi è completamente sconvolto questo concetto. Senti, a proposito di numeri, quanto cresce questo mercato? Guarda, allora, questo mercato, se guardiamo nel complesso, in questo momento il mercato italiano è un mercato che storicamente è da 20-21 milioni di unità all'anno. Quindi quest'anno a pezzi sicuramente non cresce, e c'è la possibilità, vedremo naturalmente il Natale, che è un punto fondamentale di svolta del mercato italiano da sempre, ma probabilmente ci potrebbe anche essere un piccolo decremento. Dal punto di vista del valore siamo sul più 6, più 7%, proprio perché gli smartphone rappresentano un valore maggiore, costano di più, e anche se se ne vendono un po' di meno, alla fine il produttore, il manifatturiero rimane con qualcosa in più in mano. A proposito di prezzi, una delle domande che io vorrei fare oggi è: ma non è che costano troppo gli smartphone? Perché costano... noi parliamo di cose che costano 500, 600, se non 700, 800 anche euro. Anche 800. Sì, è assolutamente vero. Gli smartphone costano molto di più dei telefonini tradizionali, non dimentichiamo che si può prendere in grande distribuzione un feature phone, come viene chiamato, quindi un telefonino classico, a 29, 39, 49 euro. Il grande balzo a 699, 799 è notevole, ma con i dati comunque stanno dando ragione ai produttori, perché nonostante questo prezzo, gli smartphone sono i telefonini più venduti del momento. Luca Figini, secondo te costano troppo? Ma adesso devi dire di no, perché Massimo Morandi ha detto di sì, tu devi dire no, non costano troppo. Allora, costano troppo se o costano tanto, non troppo, costano tanto se si vuole l'ultimo modello, se si vuole il telefonino all'ultimo grido, con la massima dotazione di memoria, con uno schermo super ampio, e quindi non si vuole scendere a compromessi in fatto di moda, di tecnologia e insomma di tendenza. Però ci sono delle scappatoie per spendere un po' meno, per esempio si può risparmiare qualcosa prendendo un modello non proprio recentissimo, ma comunque molto valido. Non troppo recentissimo, parli di pochi mesi o anche anni? Da un anno fa, un paio d'anni fa, si trovano modelli molto validi, potenti, che fanno tutto quello che devono fare a prezzi molto vantaggiosi. Bene, anche di questo parleremo tra poco. Mi viene il dubbio che però si possano fare poche cose con questi telefoni, forse no, ma ne parliamo tra poco. 2024 riprende 2024 alle 16:07. Io sono Enrico Pagliarini, oggi c'è Valeria Bernardi in regia, che salutiamo. Potete inviare messaggi anche a lei se volete oggi attraverso l'SMS 349-238-6666, oppure Facebook, oppure il telefono, il nostro numero verde. Dunque, Massimo Morandi, partiamo da un elemento importante che distingue un po' il mondo degli smartphone, ovvero i sistemi operativi. Allora, qua potremmo fare una lista più o meno lunga. Ma hai detto molto bene, perché fino a qualche tempo fa lo smartphone si definiva per il processore, per l'ampio schermo, per la capacità elaborativa, per la possibilità di avere software aggiuntivo. Oggi lo smartphone è identificato soprattutto con la sua piattaforma. Questo è stato un grande cambiamento, e la scelta del prodotto spesso non è solo più una scelta di brand, di marchio, ma è anche una scelta di piattaforma, perché poi da questa scelta ne derivano conseguenze. In qualche modo, Massimo, ci si lega un po', cioè se uno sceglie Android, se uno sceglie iOS, che è quello di Apple, poi vive in quel mondo, cioè a passare ad un altro sistema operativo non è così semplice. E questo è sicuramente il punto. Scegliendo una piattaforma, non dico che ci si leghi mani e piedi, ma comunque si resta spesso, non sempre, all'interno di quella piattaforma, con funzioni, con applicativi soprattutto, che scendono sul telefono, scendono su quella piattaforma e non possono essere usati un domani se non riscaricati o ricomprati su un'altra piattaforma. Poi naturalmente qui ci sono dei distinguo. Oggi tutti parlano di Android perché è il sistema operativo di Google per i telefonini, perché nell'ultimo trimestre, che poi è il terzo di quest'anno, ha praticamente raddoppiato la diffusione se si fa il conto sullo stesso trimestre dello scorso anno, passando dal 26% di diffusione al 52,5%. Cosa vuol dire? Vuol dire che uno smartphone su due che si vendono oggi è Android. È naturalmente il sistema operativo più in crescita, è una situazione ancora molto, molto, molto magmatica, molto mobile, non ha vinto ancora nessuno, spesso ci fanno questa domanda, in realtà in questo momento un vincitore c'è. Poi c'è Symbian che è ancora al secondo posto, è un sistema operativo che non è stato abbandonato da Nokia, ma che comunque, se fino a ieri è stato integrato sugli smartphone top di gamma di Nokia, oggi è su quelli di gamma media, di gamma bassa, e così sarà sempre più in futuro, perché sappiamo che Nokia ha scelto Microsoft Windows Phone come nuova piattaforma per i suoi smartphone. E poi c'è iOS naturalmente, che è la piattaforma che muove iPhone. Non ci dobbiamo dimenticare della piattaforma di RIM, anche se forse è il sistema operativo che ha perso più quote negli ultimi 12 mesi. RIM è il produttore del BlackBerry. BlackBerry, naturalmente. All'interno di questi dati però bisogna leggere qualcos'altro. Cioè, da un lato abbiamo sistemi operativi come quello dell'iPhone, lo stesso Windows Phone, che sono sistemi operativi chiusi, se mi passate il termine, quindi sistemi operativi perfetti, all'interno di quell'ambiente si può fare tutto, è il classico caso di Apple con l'iPhone, con l'iPad, con l'Apple TV, con tutti i suoi prodotti hardware, dove si possono scaricare gli stessi applicativi, vedere lo stesso film, vedere, fare le stesse cose. Altro conto invece è parlare di Android. Android ha scelto di essere più aperto, è un sistema operativo quindi che ha sposato una filosofia completamente diversa. Non significa che una cosa sia vincente e l'altra perdente, certo. Sono semplicemente due filosofie che poi... Esatto, questo vuol dire ad esempio che se io compro un telefono Android di un produttore e lo confronto con quello di un altro produttore, i produttori possono fare delle personalizzazioni, cioè il sistema operativo può essere cambiato. Naturalmente, altrimenti i telefoni sarebbero tutti uguali. No? Esatto. Il produttore hanno trovato proprio questo escamotage. Più o meno sono tutti uguali. Sono simili, non sono uguali. Un ascoltatore che adesso non riusciamo a recuperare al telefono, a volte c'è chi telefona poi scappa chissà dove, ci chiedeva come mai nel mondo dei telefonini non accade la stessa cosa che è capitata nel mondo dei computer o viceversa. Cioè, nel mondo dei computer abbiamo visto che sostanzialmente la stragrande maggioranza del mercato, questo ha creato anche dei problemi di antitrust, c'è un sistema operativo, Luca Figini. Nel mondo dei telefonini, degli smartphone per meglio dire, non è la stessa cosa. O è la stessa cosa? È più o meno la stessa cosa, anche nel mondo dei PC non c'è un solo sistema operativo, nel senso che noi siamo abituati a ragionare negli ultimi 15 anni di storia, nel quale con politiche aggressive commerciali Microsoft ha preso una quota dominante del mercato, ma ci sono tanti altri sistemi operativi per PC, c'è macOS in forte ascesa, c'è Linux, varie declinazioni di Linux, c'è Unix, c'è QNX. Ci sono molte altre piattaforme che possono essere installate sul computer al posto di Windows. Dopodiché la piattaforma più diffusa è Windows, ma pariteticamente anche su smartphone, se si va ben guardare, poi alla fine c'è iOS, Android e BlackBerry che tutto sommato condividono un nocciolo comune che è Linux, e poi ci sono altre piattaforme. Quindi che poi sul PC si sia stabilizzato una situazione di mercato nel quale Windows ha la parte dominante è una logica commerciale di scelta del pubblico, di chi ha preferito avere quel sistema operativo anche per ragioni di compatibilità, di driver, di periferiche, eccetera. Ma non è detto che si verifichi anche sul mondo smartphone nel medio periodo. Quindi potrebbe, ad esempio, Massimo, Android potrebbe diventare il Microsoft, il Windows della telefonia mobile. Allora, è quello che molti... Anche se qua la gara è un po' più complessa. È quello che molti credono. In realtà qui la gara è più complessa perché il tutto è molto più giovane. Le piattaforme per PC naturalmente hanno avuto un'evoluzione diversa e oggi molto più stabilizzata. Se tu pensi a, mi sembra 4 anni fa, nessuno avrebbe creduto che un, non dico il sistema operativo di Google, ma che una piattaforma, un sistema operativo avesse potuto, avrebbe potuto guadagnare tutte queste, queste quote in così pochi mesi. In realtà poi cosa è successo? Una piattaforma è crollata, ed stiamo parlando di Symbian, altre sono arrivate. Se, se facciamo la somma dei dati che ho detto, viene 96-97%. Perché? Perché poi ce ne sono altre. Sì. Ad esempio i telefonini di Samsung con piattaforma BADA sono un'alternativa, esatto. Il nostro numero verde 800-24-0024, sentiamo Luca che ci chiama da Roma. Buongiorno Luca. Sì, buongiorno. Senta, io volevo fare una riflessione riguardo appunto sia ai sistemi, diversi sistemi operativi, che al prezzo degli smartphone. E facendo proprio anche il parallelo con i computer, volevo fare questa riflessione del fatto che sotto molti aspetti Android è il nuovo Windows dei computer, nel senso che Android è il sistema operativo che per ora gira, diciamo, su una maggior varietà di device, e che quindi è quello che ha bisogno dei telefoni più prestanti. Mentre ci sono piattaforme nuove, per esempio, appunto, come dicevate voi prima, Windows Phone, che si posizionano su terminali di prezzo, diciamo, di una fascia di prezzo più bassa. Vediamo per esempio l'ultimo top di gamma Nokia, appunto la nuova scommessa di Nokia su Windows Phone, che il top di gamma viene 4,99, ma anche i nuovi terminali, diciamo, di Samsung, sempre con Windows Phone, stanno intorno ai 430-420 euro. E comunque hanno diciamo tutte le caratteristiche anche di terminali di fascia alta, dei più blasonati Android, come utilizzo, dico, anche se non come piattaforma hardware. Sì. Perché comunque il sistema è ottimizzato per quella piattaforma e non ha bisogno di un giga di RAM, di dual core e tutte queste cose qui. Luca, ottima riflessione, poi la facciamo commentare dai nostri ospiti. Sono le 16:15, minuti, riprendiamo tra poco. 2024. Le 16:16 minuti, riprende 2024. Volete commentare, Luca Figini? No, dicevo che la riflessione dell'ascoltatore è interessante, però ci terrei un paio di precisazioni. La prima è che Android funziona sia sui top di gamma, sulle fuoriserie, sia su telefoni molto meno carrozzati, e funziona altrettanto bene anche su telefoni molto meno carrozzati. Windows Phone, viceversa, quando è stato presentato, Microsoft ha pubblicato una serie di specifiche che erano il top di gamma di un anno fa. Anche per facilitare lo sviluppo dei telefoni, non ha ancora aggiornato le specifiche, ma possono tranquillamente arrivare telefoni dual core o quant'altro, è solo questione di tempo. Senti, a proposito di prezzi, c'è un ascoltatore che ci chiede, ci fa una domanda sulla marginalità. È giustificato il prezzo rispetto al costo di produzione? Allora, sappiamo che ad esempio nel mondo dei computer la marginalità è molto bassa, diciamo nell'elettronica di consumo in generale. Sui telefoni che cosa possiamo dire? Allora, possiamo dire che sui feature phone, quindi sui telefonini tradizionali, la marginalità è sempre più bassa. Pochi euro, non per i dual SIM, dove invece è stato un escamotage molto intelligente da parte di alcune aziende per alzare la marginalità. Sugli smartphone naturalmente è notevolmente più ampia. Però ti faccio un esempio, poi parleremo anche di tablet, no? Ecco, i primi tablet di Samsung usciti nel mondo avevano una marginalità bassissima, perché comunque erano costosissimi. Quindi spesso si è portati a pensare che un costo di un prodotto di 700-790 euro sia fatto dal produttore per ottenere chissà quale marginalità. In quel caso quasi non c'era la marginalità, quindi non sempre dal prezzo riusciamo a capire quanto poi il produttore realmente guadagnerà. Sì. Luca, tu una cosa che dici spesso, piace ricordare, è che qua stiamo parlando di un prodotto talmente desiderato che conta poco la marginalità, anzi sì, conta molto me, per i produttori le marginalità, perché la gente è disposta a pagare molto. Secondo me la marginalità è un concetto nel medio periodo, nel senso che un investimento che fanno poi i produttori, inizialmente il prezzo, almeno soprattutto sui prodotti come l'iPhone per esempio, come altri telefoni Android molto ambiti, il prezzo dal mio punto di vista è il valore che l'utente è disposto a pagare per poter avere quell'oggetto, perché lo reputa di valore, appunto, in quanto può esibirlo, in quanto lo gratifica. Quindi un prezzo alto molte volte non rappresenta, non va ragionato in termini di marginalità, ma va ragionato in termini di quanto il mercato quanto valore attribuisce il mercato a quell'oggetto e quindi è più propenso ad acquistarlo. Ad esempio l'iPhone costa molto, ma la gente è disposta a pagare, quindi bravissima l'Apple che riesce a guadagnarci un sacco di soldi, Massimo. Ma infatti questo è il punto, il mercato dei telefonini, forse unico rispetto a tutti gli altri mercati della consumer electronics, è ancora un acquisto fortemente emozionale. Ed è questo che spiega perché gli smartphone che costano così tanto sono in così grande crescita. Io volevo anche aggiungere un'ultima cosa ad Android. Il nostro ascoltatore ha detto probabilmente l'Android è il Windows dei telefonini. È possibile, ma non è ancora, voglio ribadire, non è ancora così certo. Ti faccio un esempio. L'acquisto da parte di Android questo agosto di Motorola Mobility ha mosso sottoterra molte cose e ha creato delle forti paure da parte dei produttori che comunque erano e sono tuttora concorrenti di Motorola, ma che poi producono prodotti Android. Quindi, tipo Samsung, tipo LG. Samsung, tipo LG. Quindi basta veramente poco in questo momento per ribaltare un mercato che non è assolutamente assestato ancora nei suoi numeri. Quindi tu dici, andiamo un po' oltre, che ad esempio se Samsung, che è un grosso produttore, spostasse la produzione su Windows Phone, sarebbe uno spostamento fatale. Cambiamo molte cose. Paolo da Siracusa, buongiorno. Nell'immaginario comune, correggimi se sbaglio, ancora i telefonini con il sistema operativo Windows vengono visti per un'utenza prettamente business. È così realmente? Oppure l'ultimo Mango, per esempio, è anche adatto a un consumatore più ludico? E poi un'altra domanda vi lascio: a che punto è l'App Store di Windows, appunto di Windows Media? Domande chiare, ottime, grazie molte Paolo, buon ascolto. Dunque Massimo, tu annuivi mentre Paolo ci proponeva la prima domanda, perché sei d'accordo che Windows è ancora legato al mondo business? No, la penso invece completamente al contrario. Era una domanda. Certo, penso che guardando e sfogliando un nuovo sistema operativo, anzi è un sistema operativo completamente diverso, ha poche cose business, cioè le ama, non sono certo le cose che si incontrano subito lavorando su questo sistema operativo, anzi direi che è una piattaforma molto social, quindi è una piattaforma molto moderna, è una piattaforma che è riuscita a eliminare molti difetti delle altre e a saper cogliere le mancanze che le altre non avevano ancora introdotto, quindi direi che su è interessante. L'App Store di Windows, ho una risposta io, mi ero preparato la notizia. Per il prossimo Windows 8, che sarà un sistema operativo che, mi insegnate voi, sarà uguale sia per smartphone che per tablet, verrà lanciato Windows Store, quindi si chiamerà così, sarà online la versione beta a partire da febbraio. Ricordiamo anche che Windows 8 dovrebbe essere presentato ufficialmente al Consumer Electronics Show il 10 gennaio. Visto che stiamo parlando di sistemi operativi, o meglio di App Store, dico anche che questa settimana l'Android Market festeggia i 10 miliardi di applicazioni scaricate. Vabbè, queste sono notizie un po' che fanno piacere a quelli che si occupano di marketing. Penso che serva poco avere miliardi di applicazioni, insomma servono ben altre cose. Luca? No, volevo solo aggiungere che già oggi Marketplace, che è l'application store di Windows Phone, ha più di 40.000 applicazioni, quindi nell'arco di un anno ha già 40.000 applicazioni. E molte delle applicazioni, quelle più belle, più riuscite che ci sono per Android e per iOS, si trovano già anche per Windows Phone. Molte volte le applicazioni hanno anche un look un po' diverso, anche più interattivo. Marco da Pordenone, buongiorno Marco. Buongiorno, io volevo essere un po' diverso dagli altri, perché io mi trovo molto bene col sistema operativo Bada di Samsung, che lo trovo un Android molto più semplificato e molto più funzionale. Volevo sapere cosa ne pensava il vostro ospite, perché io ho avuto in passato sia Mac che Android, però Mac secondo me è troppo costoso per quello che vale. E con Android non lo vedo così eccezionale, anzi lo vedo molto di basso livello anche rispetto a Bada stesso. Dunque, grazie Marco per la domanda. Poi dipende sempre uno che cosa ci fa con i sistemi operativi. Allora, direi che non si può dire che Bada sia meglio di Android in generale. Mi sento di dirlo, però Luca Figini ne sa più di me. Credo che ogni sistema operativo, per fortuna, oggi ha delle prerogative tali che non si può dire uno è meglio, uno è peggio. Ci sono cose interessanti. Beh, un po' si può, Naturalmente non tanto il quantitativo di applicativi a disposizione, ma per la qualità, per quante persone, per quanti sviluppatori sono coinvolti nel progetto. Io poi dico sempre che qualsiasi ambiente, qualsiasi sistema operativo, qualsiasi piattaforma, quando la si usa tanto e si entra poi con questa, in sintonia con questa piattaforma, non la si cambierebbe mai, sì, ed sì, è sempre sì. La migliore del mondo. Però queste sono risposte un po' troppo diplomatiche. Volevo capire cioè, se ci sono delle differenze. E in che cosa consistono queste differenze? Ma per esempio tra i sistemi operativi? Sì, tra Bada e Android in generale. Tra Bada e Android? Immagino anche che una community di sviluppatori sparsa in tutto il mondo sia già un buon motivo perché Android possa crescere di più. Sì, la somiglianza fra Bada e Android è un lavoro che ha fatto Samsung su un'interfaccia, quindi è simile l'interfaccia per una questione di family feeling, ovvero che Samsung su tutti i suoi prodotti tenta di dare la stessa esperienza d'uso. Ma sotto la, chiaramente il nocciolo è diverso fra Bada e Android, e quindi sono diversi anche il numero di applicazioni, sono diversi anche gli strumenti disponibili e sono diverse una serie di funzioni che poi si trovano sul telefono. Faccio un esempio: se con Android le applicazioni accessorie si trovano sia sul Samsung Apps sia sull'Android Market, per Bada si trovano solo sul Samsung Apps, che è un market store, un marketplace un po' più piccolo rispetto all'Android Market. Quindi se all'apparenza sembrano lo stesso sistema operativo, in realtà sotto sono due cose radicalmente differenti. Certo, quindi se uno usa poche applicazioni gli va benissimo anche Bada. Quelle più diffuse si trovano anche per Bada. Dunque, non so se aprire un capitolo sulle tariffe dati, perché molti ascoltatori naturalmente vorrebbero che parlassimo anche di questo. Volevo però dire, Massimo, due cose su questi dual SIM, che tu mi hai detto all'inizio della trasmissione essere un segmento di mercato in forte crescita. Allora, innanzitutto spieghiamo che cos'è un dual SIM. Allora, il dual SIM è un telefonino in grado di ospitare due SIM, e quindi due numeri, e di tenerli attivi o contemporaneamente oppure alternativamente. Sono anche due, contemporaneamente? Sì, sono due tecnologie differenti, naturalmente anche i prezzi sono differenti. I full active permettono di tenere attive due SIM in contemporanea. Cosa vuol dire? Che se noi siamo impegnati in una conversazione e un'altra persona ci cerca sulla seconda SIM, ci arriva un avviso di chiamata, quindi noi sappiamo che qualcuno ci sta cercando. Mentre invece i dual SIM, i primi poi che sono stati creati, ma comunque anche quelli meno costosi, noi abbiamo sempre due SIM in standby, ma nel momento in cui siamo impegnati in una conversazione, se qualcuno ci cerca, il telefono risulta spento, poi avremo il messaggino di chiamata. Questa è la differenza. È un mercato in crescita, è un mercato che in Italia quest'anno rischia, e dico naturalmente, dico rischia in modo molto positivo, di fare 1.200.000 pezzi su 20-21 milioni. Quindi è un mercato che comincia a essere importante, è un mercato che ha un'ottima redditività ed è un mercato che ha sicuramente scosso un po' anche i grandi marchi. Perché i due SIM vengono prodotti da non i soliti 5, 6, 10 marchi famosi. Allora, giusto? Questa è... Poi quelli che li producono potrebbero dire, beh, ormai siamo famosi anche noi. Esatto, devo dire che le crescite sono state importanti, anche perché i marchi più famosi, più blasonati, non sono stati della partita fino ad oggi. La realtà è che, ad esempio, proprio in questi giorni Nokia ha distribuito dei dual SIM in Italia. Quindi comincia anche i grandi manifatturieri cominciano a avventurarsi su questo terreno che fino ad oggi è stato per loro molto, direi, minato, perché gli operatori non hanno non mai sono tanto visto. D'accordo, certo. Cioè, per capire, questo vuol dire che con un dual SIM io potrei essere abbonato alla Pagliarini Telecom e alla Morandi Telecom, certo. Mettere le due SIM nel telefono e mi trovano in ogni caso. Per essere più chiari, due concorrenti possono stare con la stessa, con due SIM differenti in uno stesso telefono. E questo agli operatori non piace mica tanto. Io onestamente non ho mai compreso fino alla fine perché tu devi sapere che, ad esempio, in Francia la stessa Orange ha proposto con due SIM diverse due tariffe diverse per uno stesso telefono dual SIM, quindi la tariffa professionale, la tariffa domestica, la tariffa notturna. È un problema di mentalità. Se gli operatori anche in Italia fossero un po' più aperti, un po' più moderni, insomma, sai cos'è la paura? Farebbero... La paura loro è di perdere marginalità su telefoni venduti con offerte a 18-24 mesi. Vabbè, quelli sono d'accordo che devono essere monosim. Naturalmente, perché questi due sim non possono essere non possono essere sposati da queste tariffe, devono per forza essere venduti sul mercato libero e lì l'operatore al massimo la cosa che può fare è solo vendere la sim. Ci risentiamo tra poco. 2024. Mi piace perché la tecnologia sta diventando in alcuni segmenti un po' come la politica o come lo sport. Poco fa, giustamente, Luca Figini diceva: ma siete sicuri che si possa dire oggi che esiste un sistema operativo migliore di un altro? Effettivamente non si può dire, così come non si può dire che esista una marca di telefoni migliore di un'altra. Insomma, qua siamo veramente in un campo. Poi ci sono alcune cose per cui è bene ascoltare gli esperti, allora in alcuni momenti è meglio stare ad ascoltare piuttosto che alzare la mano per intervenire. Adesso apriamo il capitolo divertente, cioè le tariffe per navigare, perché se noi oggi acquistiamo uno smartphone dobbiamo, Massimo, correggimi se sbaglio, acquistare obbligatoriamente un piano dati con gli operatori. Che cos'è un piano dati, prima di tutto? Allora, un piano dati è una tariffa che permette, a fronte, un piano dati flat, lo chiamiamo, a fronte del pagamento di un monte mensile, di avere a disposizione un monte dati di traffico nell'arco di tutto il mese o del bimestre. Hai detto bene, è assolutamente importante avere un piano dati su uno smartphone. Ancora ci imbattiamo in tante persone che spendono 600-700 euro per uno smartphone e poi ci dicono: ma io però ho 5-6 euro al mese per navigare, non ho voglia di spenderli perché la DSL a casa costa meno. E questo, guarda, che è ancora un pensiero molto diffuso, ed è un pensiero pericolosissimo, perché è un pensiero che ti può portare a fine mese a trovarti una bolletta di 1000 euro. Perché? Perché gli smartphone, anche se non ce ne accorgiamo ormai, hanno di base moltissime funzioni che sono sempre collegate alla rete. Un esempio, la skin di HTC con il meteo sempre aggiornato, con le temperature sempre aggiornate, e naturalmente viene aggiornato da un server che fa previsioni del tempo, quindi continua a cercare quel server per darci la temperatura o la previsione del tempo. La posta arriva via web, arriva via dati. WhatsApp, per esempio, che sembra un SMS, ma in realtà è un traffico dati. Sì. Infatti gli operatori, parlando ogni tanto ci faccio qualche chiacchiera con gli operatori che costruiscono le reti, quindi le reti proprio di telefonia mobile, mi dicono che negli ultimi anni è aumentato in modo incredibile il cosiddetto traffico di segnalazione, che è proprio la cosa che voi state dicendo, cioè un sacco di sistemi in giro per internet che ci mandano delle informazioni sul meteo, sulla borsa, eccetera, eccetera. In mancanza di piani dati, diciamo, senza limite non esiste, cioè flat come la DSL non esiste quasi, sono sempre ben limitati, anche perché la risorsa è scarsa ed è sempre più scarsa, ed è per quello che si sta parlando sempre più velocemente di LTE, perché si sta cercando in qualche modo di dare più banda ai tanti clienti che la richiedono. Altra cosa che mangia tantissima banda: i social network. Perché sì, utilizzatissimi in mobilità, anzi io sono dell'idea che il social network ha ancora più ragione di esistere quando noi siamo in mobilità, non quando siamo a casa o quando siamo davanti al desktop. In realtà qui non c'è solo un aggiornamento quando riceviamo un messaggio o inviamo un messaggio, ma c'è un aggiornamento continuo per cercare tutte le novità, tutti gli aggiornamenti di stato dei nostri contatti. Quindi anche in questo caso assolutamente piano dati flat. Tra l'altro diciamo che molti piani prevedono un monte dati, io ne ho provati un po', insomma, direi piuttosto elevato, che non crea problemi, a meno che uno scarichi dei video. Io sono comunque dell'idea che una volta che si usa posta, social network, applicazioni, e si ha un monte dati di 2 giga al mese, di 5 giga al mese, ti assicuro è difficile raggiungerlo, è quasi impossibile superarlo. Quanto costano questi piani a spanne? Mica possiamo fare la lista. Dai 9 euro in su al mese. Dunque c'è una domanda interessante. Un ascoltatore molti non si firmano, non capisco perché, comunque vabbè, perché non è possibile avere una sola SIM che contenga più numeri di telefono e più operatori con diversi piani tariffari? Beh, probabilmente, ma non so se voi avete una risposta, probabilmente perché le SIM vengono emesse da dagli operatori che per i motivi di cui prima cercano di massimizzare il profitto su o un piano tariffario o comunque sui propri profili. Esistono dei progetti, ci stanno lavorando gli operatori, ma mi pare che siamo ancora in alto mare, sulla costruzione di una virtual SIM all'interno, annegata dentro al telefono, ma ancora per motivi prevalentemente di sicurezza gli operatori preferiscono utilizzare la SIM hardware, che è un pezzo di plastica con un chip. Poi la SIM comunque è come se fosse la smart card nel decoder, quindi di fatto è il noleggio di una banda radio che gestisce l'operatore e quindi ti dà l'accesso alla banda radio. Sì. Ugo da Torino, buongiorno. Buongiorno, io volevo fare una domanda riguardo agli smartphone. Se un utente, diciamo, ha un'azienda, un sito e magari vuole fare un'applicazione per questi smartphone che dia le informazioni, le news sul suo sito più recenti, è una cosa possibile? Come si deve fare? Quanto costa? E poi una seconda considerazione che volevo fare riguardo agli smartphone è che sono dei telefoni che hanno sempre un valore residuo anche quando sono, diciamo, vecchi, magari di un anno, e quindi è, come dire, anche nel mercato una catena, magari uno lo cambia, lo dà al figlio, lo dà al nipote, oppure se uno non ha pretese particolari di avere l'ultimo grido, dopo un anno con un prezzo più che dimezzato riesce ad avere uno smartphone che fa tutto quello che deve fare benissimo senza pagare uno sproposito. Corretto. Ho un iPhone 4 che ho preso adesso di un anno, l'ho pagato meno della metà e mi va benissimo. Grazie. Esatto. Ottima considerazione questa sul prezzo che crolla molto rapidamente, ma con il quale si trovano, insomma, prodotti assolutamente adeguati anche alle esigenze di oggi, Luca. Sì, poi tra l'altro su questo discorso del valore residuo, io ho parecchi amici che cambiano telefono ogni anno perché lo vendono, quello vecchio modello, e ne comprano un nuovo, quindi alla fine non si può solo dare, ma si può anche reinvestire i soldi. Sì, però effettivamente se gli amici dei tuoi amici praticamente hanno telefoni comprati a metà prezzo, magari anche meno, di un anno, e non stiamo parlando di cose assolutamente datate, ci si possono fare tutte le cose che fanno i moderni telefoni. Si può fare praticamente tutto, social network, email, telefoni di un anno, anche due anni fa, sono tranquillamente utilizzabili per tutte le applicazioni moderne, anzi magari si trovano degli aggiornamenti per aggiornare il sistema operativo, come nel caso dell'iPhone 4 o dell'iPhone 3GS che viene aggiornato il sistema operativo S5, piuttosto che Android si aggiorna la 2.x o 2.2, 2.3, quindi a volte sono anche un affare perché si pagano meno e si ha tutto. Volevo anche rispondere alla prima parte della domanda dell'ascoltatore. Sì, esistono delle applicazioni online, dei servizi online che anche con 100 euro all'anno permettono di creare le applicazioni fai da te, e è lo stesso gestore di questa piattaforma che poi si occupa della parte di certificazione sull'Application Store o sull'Android Market. Quindi non bisogna sempre e solo rivolgersi a uno sviluppatore, ma si possono anche creare micro applicazioni con questi sì. sistemi. Devo anche dire che i costi di sviluppo di queste applicazioni, fatti attraverso società di sviluppo software che ormai si sono moltiplicate, sono piuttosto bassi, perché sviluppare un'applicazione è relativamente semplice. Ci sono un sacco di ragazzi che hanno creato delle piccole aziende e sviluppano software. Forse il problema è che nel mondo internet, con l'HTML e quindi con il web, si sviluppa una cosa e funziona per tutto, perché l'HTML e il web è multi-platform. Le applicazioni hanno creato effettivamente un problema, perché bisogna sviluppare un'applicazione per Apple, un'applicazione per Android, un'applicazione per Symbian, un'applicazione per Windows Phone, una per BlackBerry. Poi c'è di più, una per smartphone, una per i tablet, perché oggi non basta più. Sì, quindi finché non ci sarà, e stiamo andando in questa direzione, un'unificazione di piattaforma tra smartphone e tablet, ci siamo vicini ma non ci siamo ancora, quando un'azienda decide di sviluppare un'applicazione, prima si chiede per quale piattaforma la faccio. Di solito la scelta è obbligata. Si inizia con iPhone e poi la si fa per Android, e a scendere e la si farà per Windows Phone e poi per tutto per il BlackBerry, resto. Cioè. Per BlackBerry sì, forse a livello aziendale sì. E poi la facciamo per i tablet, per quali tablet? Perché pollicciaggio di tablet, quindi è comunque la spesa sale. Eh sì, questo è effettivamente un problema. Che cosa risolverà questo problema? Le web app. HTML5. HTML5, le web app esistono già, molti quotidiani... Che cosa sono? Spiegaci un po'. La web app fondamentalmente è un'applicazione che funziona via web, quindi è un piccolo sito internet con delle funzioni specifiche che sembra quelle di un'applicazione, però in realtà sono appoggiate a un server web, si digita un URL, quindi un indirizzo internet, e poi si può salvare questa pagina come se fosse un'applicazione sul desktop del tablet o dello smartphone. Quindi chi sviluppa o l'azienda che fa sviluppare una web app non deve passare dalle maglie, a volte piuttosto strette, di chi gestisce i negozi tipo la Apple, tipo Android, eccetera, eccetera. Sì, si supera questo ostacolo, questa certificazione, e in realtà però poi il prezzo da pagare, un'applicazione, se vuoi, un po' meno integrata nel sistema operativo rispetto all'app tradizionale. Sì. Allora, c'è chi mi ha detto che lo sviluppo e la crescita delle web app, quindi di HTML5, eccetera, eccetera, creerà un sacco di applicazioni, anzi simil applicazioni, perché di fatto abbiamo detto che sono cose che stanno e risiedono su internet, legate a che cosa, lo sapete? Ve lo dico dopo la pubblicità. 2024. 16:45 minuti, questo è 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Ci trovate anche in podcast, tra poco troverete la versione podcast sul nostro sito internet. Dateci tempo di concludere questa trasmissione e che io possa salutare Massimo Morandi e Luca Figini che oggi ci hanno accompagnato. Massimo Morandi dirige Cellulare Magazine e tutte le altre cose che ne derivano da Smartphone Magazine, eccetera, eccetera. Ne vuoi ricordare una in particolare? Sì, voglio ricordare una nuova iniziativa. Ne avete sempre una nuova. Sul sito onlydigital.it ed è una rivista, uno sfogliabile digitale, tutto dedicato al mondo dei tablet. Naturalmente, completamente gratuito sul web. Di cui oggi non abbiamo parlato perché non lo facciamo in tempo, dobbiamo dedicare altre puntate. Dunque, potremmo dedicare una puntata ad esempio all'aggiornamento dei software, perché ci sono un sacco di domande su questo. Sentiamo Giovanni. Ah no, dovevo rispondere prima. Allora, lo sviluppo di HTML5, quindi di web app che sono basate sul web e non richiedono di essere approvate dai gestori dei negozi, creerà uno sviluppo di applicazioni basate sul porno. Infatti Luca Figini voleva citare Playboy per esempio, però avevi un po' di timore. È un trend di mercato. Sulla pornografia io invito soprattutto i genitori ad aguzzare gli occhi, e secondo me anche i gestori dovrebbero fare qualcosa, dovrebbero fare dei piani per le famiglie dove bloccano i servizi di pornografia, però mi sembra che i gestori siano poco attenti a questo, oppure mi è sfuggito qualche cosa. Sentiamo Giovanni da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, buonasera a tutti, complimenti per la trasmissione. Io volevo fare una domanda su Android, io ho un terminale Android, però ho sempre visto e vedo sempre con invidia gli altri due grandi software, quindi Apple e Windows Phone, perché quando fanno degli aggiornamenti del sistema operativo sono quasi in tempo reale e distribuiti su quasi tutti i terminali. Mentre io con Android, quando esce una nuova versione, ad esempio adesso è uscita la 4, sono vincolato a aspettare mesi senza averne la certezza che esca la versione customizzata della casa madre. Secondo me questo è un punto debole che alla lunga si sentirà, ecco, lo sentirà la vostra opinione. Io penso che lei o tu, Giovanni, abbia ragione, perché effettivamente quello dell'aggiornamento è un problema di Android che è molto frammentato, però volevo sentire la vostra... Per quanto riguarda Android, la parola chiave qui è customizzata, personalizzata, nel senso che l'interfaccia, quando è personalizzata dal gestore, e quindi l'aggiornamento deve essere riapprovato dal produttore sulla sua interfaccia, quindi vanno fatte una serie di certificazioni ulteriori. Sugli altri sistemi operativi invece non è poi così veloce l'aggiornamento. Dunque, leggo un messaggio che mi è arrivato, cioè proprio un messaggio di chat su Facebook. Allora, sembra fatto apposta, però vi giuro che non è fatto apposta. Dice: ti sto ascoltando da Malta, in streaming con una Pure Radio. La Pure è una marca di radio che noi citiamo ogni tanto perché sono tra le poche che hanno anche il sistema DAB, che non è ancora partito commercialmente, ma speriamo che prima o poi parta, però permette anche di ascoltare la radio in streaming via web. Ti sto scrivendo con un Samsung tablet, un po' di tecnologia che mi ha cambiato la vita. Io penso che il problema, un problema di Android sia la, che cosa, la frammentazione. Stavo appunto scrivendo questa cosa che noi abbiamo appena, appena citato. Massimo, vuoi aggiungere qualche cosa? No, guarda, voglio aggiungere che anche sul, l'aggiornamento è sicuramente un momento ancora di grande, fragilità dei sistemi operativi, dei firmware in generale. Quello che io mi aspetto nei prossimi anni è che tutto possa essere fatto on the air, perché ancora adesso bisogna collegare comunque il cellulare al computer. Bravissimo. E stiamo parlando anche degli ultimi sistemi operativi, degli ultimi telefoni. Questo va semplificato, perché stiamo parlando di un prodotto che è nelle mani del 50% del pubblico che acquista un telefonino e che spesso non ha delle doti informatiche così alte da comunque dover collegare il telefono al computer, andare su Zune per quanto riguarda Windows Phone piuttosto che su altri siti per altre piattaforme. E tutto deve essere fatto via rete. Chiarissimo, mi sembra, sono particolarmente d'accordo. Volevo chiedere a Luca Figini proprio così una preferenza attuale su smartphone, sistema operativo che tu usi, che ti piace di più. Sbilanciati un po'. Mi sbilancio un po', allora, per la scoppia... Ne puoi citare anche tre o quattro, così non ti sbilanci. Diciamo, io ho due telefoni, uno per lavoro e uno personale, quindi sono le due mie preferenze. Per lavoro, io per esempio mi trovo bene con BlackBerry per la posta elettronica e perché ha una tastiera, quindi secondo me BlackBerry OS per questioni di sicurezza e di scrittura di messaggi è l'ideale per me. Per la vita privata poi ho un iPhone e quindi per la parte multimediale ludica, per quando sono in giro per far vedere i video o quant'altro, preferisco l'iPhone. Massimo. Ma sono d'accordo sul fatto che forse l'iPhone abbia ancora un pizzico di migliore esperienza d'uso. E penso che su questo siamo forse tutti d'accordo a questo tavolo. Io poi alla fine noi proviamo, alla fine non giriamo spesso non col nostro telefono, ma giriamo con l'ultimo telefono che stiamo provando. Questo è da un lato divertente, dall'altro spesso ti fa capire con più velocità quali sono i punti deboli e i punti forti di ciascuna piattaforma. Ad esempio, provando Windows Phone, devo dire che la gestione di tutto quello che è contatti mail, rubrica, social network, che sono intrecciati in un'unica funzione, ha per la prima volta fatto sembrare un po' più vecchie tutte le altre piattaforme, che naturalmente reagiranno e metteranno naturalmente delle nuove funzioni. Però devo dire che è cresciuto molto bene Windows Phone. Sì, questo lo dicono in molti. Dunque, domanda negli ultimi 5 minuti. Conviene, un ascoltatore ci scrive, conviene comprare sul mercato libero o con l'operatore? Ah, grande domanda questa. Questa è una domanda da $1 milione. Allora, la risposta è fate bene i calcoli. Perché non c'è, anche qui, non c'è in assoluto una risposta comprate sul mercato libero o comprate sull'operatore. Fate bene i calcoli perché spesso quello che sembra la miglior scelta alla fine di 18-24 mesi si rivela invece la peggior scelta. È chiaro che pagare 15, 19 o 20 euro al mese è molto più leggero che versare 700 euro in una volta. Però noi abbiamo fatto dei calcoli proprio con Luca, ad esempio sul prezzo... Che è più bravo in matematica. che è ingegnere, quindi più bravo in matematica di me. Più veloce. In realtà cosa costa un iPhone 16 giga? 4S costa, mercato normale, sui 600 euro, con l'operatore 24 mesi sui 1700 euro. Circa alla fine di senza sforare i limiti imposti dal naturalmente dal c'è anche del traffico in questa sì, cifra sì, certo. Però comunque è una cifra di grande rispetto. Diciamo che la scelta verte su due ragionamenti. Innanzitutto quando si vuole ottenere un valore residuo dell'oggetto, come dicevamo prima, e quindi eventualmente magari cambiare l'oggetto una volta all'anno, forse conviene investire un po' di più subito ma acquistare il telefono sul mercato libero, così sono libero, quando voglio lo rivendo, lo regalo, è comunque mio. E poi ci aggiungo il traffico telefonico che genero. Viceversa, se non ho particolari obiezioni a rimanere fedele all'operatore per un tot numero di mesi, a quel punto conviene passare dall'operatore. Non è detto che anche se decido di farlo il contratto il telefono non posso venderlo. Non posso rescindere prima dal contratto perché pago una penale. Però il telefono posso venderlo. Certo, bisogna stare attenti che poi e le condizioni che ho su quel contratto valgono anche sull'eventuale nuovo telefono. Sì. Attenzione che questo non vale solo per i telefoni, vale anche per i piani telefonici nudi, quindi senza telefono a seguito. Sì. Quindi occhio sempre a quello che sottoscrivete, perché un piano dati o anche una tariffa voce spesso bisogna portarsela dietro per 18-24 mesi, e se si decide di cambiare operatore, di interrompere, quella tariffa bisogna continuare a pagarla. Dunque, un ascoltatore ci segnala che con iOS 5 si fa tutto via rete, quindi non bisogna passare per il Mac. iOS per la prima volta è introdotto iCloud è un sistema di backup e sincronizzazione. Non è detto che non lo utilizzi, tu dici. Non è detto che non lo utilizzi, e poi comunque sul Mac ricevi le foto, ricevi i documenti, quindi comunque dal Mac sul PC o sul Mac ci arrivi. Puoi fare l'aggiornamento per la prima volta dopo 4 anni dall'annuncio di iPhone, finalmente si può fare l'aggiornamento over the air, quindi direttamente dalla rete. Benissimo, io ringrazio tutti gli ascoltatori che ci hanno scritto via mail, Facebook. Purtroppo non ho fatto in tempo a leggere molti messaggi perché devo un po' stare attento a tante altre cose. Massimo Morandi e Luca Figini. Ciao Enrico e buone feste a tutti. Ciao, buone feste, ciao a tutti. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica se volete comunicare con noi nella settimana, 2024@radio24.it, oppure nella nostra pagina Facebook. Io sono Enrico Pagliarini, appuntamento alla prossima settimana. 2024.